slick chick. See, a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. A hot heels on for the baby blues. Purple lipstick for the very first time. Man oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety clicker stitch. She's Miss Rhythm. She's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah know she's a stick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click it, click it, click it. Yeah, yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Vieni con me, ti porto a casa, ti fai una bella doccia, un caffè doppio e vedrai che ti passa tutto. Perché te non sei pazzo. No, non sei pazzo. Te hai solamente alzato un po' il gomito. Dai, vieni con me. C'ho la macchina laggiù, quella con le lucine che girano. Scommetto che ti piace. Vieni con me. Dai, andiamo a casa. Dai. Dammi un bacino. Come? Dammi un bacino. Sì, sì, io. Dammi un bacino. Ecco, un bacino. Bravo, andiamo, eh? Un altro bacino? No. Sì, ma un altro bacino. Ecco, ora basta, siamo a casa, eh? Un altro bacino? No! Ho detto basta! Basta! Non un bacino! No! No, aiuto! Ragazzi, prendetelo! Ma no, no, aiuto! Prendetelo! È rimasto! Te non sei pazzo. Non sei pazzo. Te sei semplicemente uno che ha alzato un po' il gomito. Dai, vieni con me. Ti porto a casa. Ti fa una bella doccia. Un caffè doppio. E passa tutto. Dai, vieni. C'ho la macchina qui fuori. Quella con le lucine che girano. Lo so che ti piace. Dai, vieni. Dai. Dammi un bacino. Dopo? Dopo in macchina? Sì, dopo sì, in macchina. Dammelo un bacino, dai. T'ho detto dopo, in macchina. Ma dammelo un bacino, dammelo un bacino, dai. No, t'ho detto dopo. Dammi un bacino. No, oh, oh. Oh, aiuto, ragazzi. Ragazzi, aiuto, prendetelo. Aiuto, ragazzi. Slick cheek. 21 e 27 del giorno 17 gennaio 2018, prima puntata di quest'anno di Slick Chick. Effettivamente sì, è un bel po' che non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da questi microfoni, quantomeno non in diretta, e ho mille scusanti dalla mia e in particolare una voce da baritono che mi perdonerete. D'altronde la temibile influenza ha colpito anche me, come penso il 90% di voi. Infatti io spero che un po' di voi mi stiano ascoltando, anche non fosse altro perché a casa si annoiano in preda all'influenza e quindi magari stanno ascoltando e cercando di trovare compagnia nella nostra radio, in particolare in Slick Chick. Comunque questo era Novello Novelli ed era il personale tributo di Slick Chick a questo meraviglioso personaggio, purtroppo scomparso qualche giorno fa, e non potevamo non tributargli un omaggio, anche se piccolo e veramente in qualità infima, come un file compresso scaricato da YouTube necessita. E in particolare era un pezzettino tratto da Caruso Pascoski. Beh, penso che gran parte di voi, in particolare i fiorentini, l'avranno riconosciuto, fa parte del nostro bagaglio culturale, perlomeno quelli della mia generazione non possono non averlo riconosciuto. E in realtà Novello Novelli, con tutta la sua sapienza, non c'entra tantissimo poi in realtà con il tema che andremo a trattare stasera, anche se Novello Novelli e la sua meravigliosa faccia c'entra sempre e comunque. Ma stasera invece parleremo di malavita. Malavita, criminalità, crimine, criminali e tutto questo mondo torbido e spaventevole che ci viene raccontato dal cinema, dalla musica. Beh, in realtà lo troviamo tutti i giorni nelle nostre vite in modo più o meno evidente, però Slick Chick, come di consueto, si concentra sulle scuse che ci fornisce la musica per parlare di un certo tema. Ma in questo caso, come abbastanza per forza di cose è così, la musica si mischia molto spesso con il cinema, e a narrare di malavita e di crimine è la musica nella sua forma cinematografica, o il cinema nella sua forma musicale, che dir si voglia. Iniziamo però subito da un qualcosa che con il cinema non c'entra, anche se poi insomma ce lo rinfileremo a piene mani nel resto della scaletta, perché il primo brano che ci andiamo ad ascoltare è di Enzo Iannacci ed è del 1966, Faceva il palo. Faceva il palo, forse ve la ricorderete, beh, è un brano abbastanza famoso e bellissimo, è una canzone in dialetto milanese. In realtà scritta dal cantautore Walter Valdi, però sì, appunto in un dialetto milanese abbastanza incomprensibile, del quale Iannacci ha proposto una versione in italiano. L'ha un po' cambiata, però in realtà l'ambientazione, ovviamente, l'accento, alcune parole, espressioni, comunque rimangono le stesse. Non è che ve la posso raccontare, direi che ve la dovete ascoltare, dedurre il deducibile dal testo abbastanza esplicito. Faceva il palo nella banda dell'Ortega, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, fuori che lui. Lui era fisso che sputava nella notte, quando gli è passato davanti a lui un carabinier. Insomma, un ghisa tricariva e un metro notte, nanca una piega, la paranca un plisse. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché l'era il sommeste. Così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto, ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il coupé sta sempre in niente. Perché vederci non vedeva un autobotte, però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché l'era sua veste. ci sono stati pugni, spari, grida e botte. E appena via nella giamò quasi mesti. Lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, perché ci vedeva in stesse d'or come Deli. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente guarda, gli dà 100 lire e poi va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi barbotta perché ormai le ha un po' rabbia. Ed è arrabbiato con la banda dell'Ortica, perché lui dice non si fa così a rubar. Dice ma come? A me mi lascia qui di fuori. E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, ma qualcosino chiudiamo più. No, no, questi è proprio un lavorato stupido. Io sono un palo, non un barba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbalbati. Mi metto in proprio così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché era il suo mestre. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché era il suo mestre. Vale, vale, vale, vale. Ecco, faceva il palo. E no. Enzo Iannacci, 1966, come dicevamo. E proseguiamo sempre con un brano italiano. Beh, ce ne saranno diversi in questa scaletta, devo dire. E questa volta appunto iniziamo a affondare le mani nel cinema, anche perché ci facciamo guidare da Ennio Morricone, e chi se no. In particolare ascoltiamo un brano tratto dall'album Crime and Dissonance, uscito nel 2005 per la Ipecac Records, ma chissà come si pronuncia, voi lo sapete? Io non ho mai capito, vabbè. E, in particolare è un album che è una compilation, una collezione, una raccolta di brani per musiche composte da ovviamente Ennio Morricone, più o meno negli anni 70, diciamo dall'inizio degli anni 70. Patton, beh, lo saprete, l'etichetta, la Ipecac è l'etichetta di Mike Patton, tra gli altri. E Patton è un grande ammiratore di Morricone e ha voluto questo disco come tributo a uno dei suoi compositori preferiti. L'attenzione in questo caso è posta non tanto sulle musiche per film western, che del resto sono le più conosciute e famose nel resto del mondo, quanto invece sul Morricone più sperimentale dei film noir o anche horror di quella cinematografia italiana degli anni 70, ben nota a noi in Italia, ma un po' meno altrove, anche se ovviamente ha dei grandissimi fan e ammiratori un po' ovunque. È quindi il Morricone inquietante, ambiguo e ossessivo, che eppure riesce a non essere mai, neppure per un attimo, respingente, almeno secondo me è così, il fascino del male, insomma, si potrebbe dire. Questa in particolare è seguita sempre appunto da Crime and Dissonance, Ennio Morricone. Ecco, e dopo Morricone arriviamo a invece, beh sì, ci allontaniamo un attimo dall'Italia per tornarci poi a breve, e con Nick Cave and the Bad Seeds. In particolare il brano è una reinterpretazione, una cover, è Wanted Man, e vabbè, Nick Cave l'ha pubblicato nell'album The First Born Is Dead del 1985, ma è appunto una reinterpretazione di un brano piuttosto famoso, peraltro, di Johnny Cash, scritto però in realtà da Bob Dylan, a sua volta pubblicato nell'album At San Quentin nel 1969, ovvero la raccolta del live suonato durante, appunto, nel live del concerto al carcere di San Quentin, di San Quintino, ecco, italianizzandolo. E beh, dell'esperienza di Johnny Cash all'interno dei carceri ne abbiamo parlato molto approfonditamente nella prima puntata, se non ricordo male, di Slick Chick, dedicata al carcere, e quindi vi invito, se non l'avete ascoltata, a riandarvela a riagguantare. Puntatona, beh, la prima puntata, non solo la prima puntata di Slick Chick, la prima puntata della prima trasmissione andata in onda su Radio Wombat, quindi insomma, se volete un po' di Amarcord, pazzi, ve la siete persa, andatevela a ricercare, anche perché adesso non posso dilungarmi ulteriormente su queste questioni. Ma dicevamo, Wanted Man, scritta da Bob Dylan, insieme a Johnny Cash, non si sa, non si è ben capito, però in ogni caso interpretata e registrata da Johnny Cash, che dice in italiano così: ricercato in California, ricercato a Buffalo, ricercato a Kansas City, ricercato nell'Ohio, ricercato nel Mississippi, ricercato nella vecchia Cheyenne, dovunque tu guardi stanotte puoi vedere questo ricercato. Posso andare in Colorado, per mare in Georgia, e lavorare per qualcuno che non sa affatto chi io sia. Se mai mi dovessi vedere arrivare, sai chi sono, non fiatare con nessuno, perché sai che mi sono alle calcagna. Ricercato da Lucy Watson, ricercato da Jenny Brown, ricercato da Nellie Johnson, ricercato nella prossima città, ma ho avuto tutto quello che volevo di un sacco di cose, ed ancora di più di quanto ne avessi bisogno di cose sbagliate. Ho perso la strada del Paso, mi sono fermato per farmi una mappa, ho sbagliato di direzione a Juarez con Juanita tra le braccia, me ne sono andato a dormire a Shreveport, mi sono svegliato da Abilene, chiedendomi perché diavolo sono ricercato in qualsiasi posto. Ricercato ad Albuquerque, ricercato a Syracuse, ricercato a Tallahassee, ricercato a Baton Rouge. C'è qualcuno pronto a catturarmi dovunque vada e dovunque tu guardi. Stanotte puoi intravedermi. I'm a wanted man. Wanted man. I'm wanted. I'm a wanted man. California. I'm a wanted man in a Buffalo. I'm a wanted man in Kansas City. Wanted man in a Ohio. I'm a wanted man in a Mississippi. They want me in old Cheyenne. Wherever you may look tonight, you will see this wanted man. I might be in Colorado, or Georgia by the sea, working for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming, and you know just who I am, don't breathe a word to no one, buddy, 'cause I'm a wanted man. Wanted. Wanted man in El Dorado. This wanted man's in Jesse Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in our next town, wanted man by the Bourne sisters, wanted man by King Callahan. Hey, honey, don't you tell me you don't want me, 'cause I'm a wanted man. Oh, broken man who lost his will to live, oh, haunted man. Pushing daisies in the ground. Wanted man in the Windy City. Wanted man in Tennessee. Wanted man in a broken arrow. Wanted man in a wounded knee. Wanted man in a Jackson town. Wanted man in El Paso. I got bounties on my head in towns I would never think to go. Quello ci denuncia tutto. Oh, ma che va a fare? Aprite! Polizia! Polizia! Oddio! Oh. Via, ragazzi, via! Ma l'animaccia tua è destro... Vuoi ammazzare? Disonesto e fetoso! Sti imbecilli! Fa pure lui! Beh, ve lo siete preso, lo spaghetto! Ammazza che carogno! Still this record! Still this record! Still this record! Don't buy it! Still this record! Still this record! Still this record! Don't buy it! Got no money, I'm feeling down! When I want it around, I see that record, I want it so much, I think I'll take it and try my luck. I'm in tang and I don't think I noticed. I'm out the door and I'm on my toes. I hear a scream, but they won't. The Business, Still This Record, l'avrete probabilmente riconosciuta perché era una fondamentale pietra miliare del no copyright, ruba questo disco, non lo comprare. L'album era No Mercy For You del 2001, anche se veramente i Business potrebbero essere di 20 anni prima almeno, ma invece è del 2001, ebbene sì. E me lo dovevo anche ricordare visto che ho anche il vinile, ma eppure no, li avrei datati ben più in là. E prima ancora ci siamo ascoltati una breve clip dall'audace colpo dei soliti ignoti del meraviglioso Monicelli, Mario Monicelli, che beh, anche lui ha da dire diverse cose sulla malavita, chiamiamola così. E rimaniamo in Inghilterra, o perlomeno in Europa sicuramente, ma beh sì, per certi versi proprio in Inghilterra, con gli Specials che ci raccontano il prossimo brano, che è The Gangsters, senza i gangster e basta. L'album è Specials del 1979, perché infatti questo fu il loro primo singolo in realtà, e narra sostanzialmente, se lo sapete, non so se lo sapete, di un incidente, chiamiamolo così, che capitò alla band quando si trovava in tour in Francia. E alloggiava in un albergo, e l'albergo li ritenne responsabili di un danno non meglio specificato, almeno io non so bene che tipo di danno fosse, comunque un danno grosso evidentemente fatto all'albergo, che era stato fatto da un'altra band inglese che alloggiava nello stesso albergo. E siccome poi alla fine insomma le band inglesi sono tutte un po' uguali, il direttore dell'albergo decise che erano stati loro, e a nulla valsero le proteste del gruppo, e il direttore si voleva tenere una delle loro chitarre come deposito cauzionale in attesa che gli pagassero i danni. Gli Specials ovviamente non ne volevano sapere di pagargli i danni e volevano indietro la loro chitarra, e la situazione prese abbastanza comprensibilmente una brutta piega quando l'albergo chiamò la polizia francese. Questa canzone è un rimaneggiamento, diciamo, ricampionamento, cioè ha diversi ricampionamenti del classico ska del 1964, Al Capone di Prince Busters. E c'è un sample degli effetti della macchina in apertura della canzone, cioè della canzone del 1964. Quindi ci ascoltiamo questo pezzettino abbastanza storico che narra di un episodio di vita vissuta e di poveri gruppi accusati ingiustamente. The Specials, Gangsters, non so perché oggi non mi riesce di dire questa parola, sarà l'influenza. E continuiamo con, non potevamo non andare su Buscaglione, parlando di malavita e criminalità, il re del crimine musicale perlomeno. Fred Buscaglione in particolare, si potrebbero far sentire forse tutti i pezzi suoi, ma quello che ho scelto è Noi Duri, che è fra l'altro un film, è il titolo di un film, ed è l'ultimo film interpretato da Buscaglione. Buscaglione che muore all'alba del 3 febbraio 1960 in uno scontro della sua scintillante macchina fuori serie con un camion a Roma. Il film, interpretato anche da Totò, è ambientato a Parigi, in un locale notturno che è il quartier generale di una banda di spacciatori di stupefacenti. E, viene ucciso un poliziotto dell'FBI che aveva scoperto le file della banda. A sostituirlo viene inviato il tenente Fred Bombardone, ma che finezze, che d'accordo con la Sûreté, ovvero la polizia francese, architetta un astuto piano per introdursi nell'equivoco ambiente. Egli costituisce cioè un'orchestra composta di agenti della Sûreté e si fa scritturare dal locale notturno le fric da fric, ove riesce a farsi credere un tipo losco. Bah, incredibile poi peraltro, perché Buscaglione con quella faccia. Invitato a far parte della banda dagli spacciatori di stupefacenti, è bellissimo, scusate, sto leggendo una trama che ovviamente non ho scritto io, e quindi molto bello questo, spacciatori di stupefacenti, viene a contatto col capo chiamato l'Algerino, e dopo aver dato prova della propria abilità viene inviato a Casablanca a ritirare una certa quantità di merce. Tornato a Parigi, mentre d'accordo con la polizia sta per catturare la banda con le mani nel sacco, la merce gli viene rubata. L'Algerino sospetta un tradimento e fa sequestrare Fred coi componenti dell'orchestra, deciso a disfarsi di tutti se la merce non gli viene riconsegnata. Fred non riesce a spiegarsi come la merce sia sparita, ma poi un particolare tornatogli in mente lo mette sulle tracce del colpevole. Si tratta della cantante della sua orchestra, che appartiene a una banda rivale. Recuperata la merce, può liberare i suoi e far arrestare la banda. Noi duri. Noi duri, coi volti scuri scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri, noi duri. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne, che donne. Con l'abito rigato, la pistola nel gilet, ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi se l'avrà. Ecco, eccola, noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori, noi duri. Scivolando lungo vicoli scuri, torniamo da mamma, che a nanna ci metterà, noi duri. Quante ne sapeva Buscaglione, proprio ne sapeva troppe. Infatti, troppe ne sapeva e è andato a finire così. E Ancora, sempre di malavita parliamo, in questo caso di malavita quella vera, quella non tanto da romanzo o da fumetto, ma quella brutta e fastidiosa e soprattutto dalle mani bianche e pulite. The Evans, il gruppo di Ian McKean e della sua compagna, ci introduce questo argomento con Wanted Criminals, l'album At the Odds del 2012. Wanted Criminals, un pezzettino del testo, essenzialmente il ritornello ripetuto fino alla noia, è Wanted Criminals, everybody's got their badges, but they've got no one to apprehend. Cercasi criminali, hanno tutti il loro distintivo, ma nessuno da arrestare. Non ho ben capito onestamente se il riferimento è voluto o no, mi viene da pensare parecchio di sì. In ogni caso, il 2012, anno in cui esce questo disco e questo brano soprattutto, è anche l'anno in cui viene ucciso Trayvon Martin. Verso le 7 di sera del 26 febbraio del 2012, Trayvon Martin, un ragazzo afroamericano di 17 anni, era uscito da un negozio e stava camminando lungo la strada di Sanford in Florida. Martin, che non aveva precedenti penali, era disarmato e girava con una felpa con il cappuccio sollevato, e aveva con sé, attenzione, una bibita e un pacchetto di caramelle. Zimmerman, 29 anni, vigilante volontario delle ronde di quartiere, fu insospettito dal ragazzo, perché chi non si sarebbe insospettito, e per questo decise di segnalarlo alla polizia chiamando il 911, cioè tutto molto lineare, no? Iniziò a seguirlo con la macchina, ma invece di aspettare l'arrivo della polizia, poi insomma magari l'esito sarebbe stato lo stesso, decise di scendere e andargli incontro, convinto che fosse un ladro, cioè proprio ci sarà fissato. Si chiama stalking, però vabbè. Tra i due ci fu uno scontro. Che cosa successe di preciso è al centro ancora di quesiti, non si sa ancora, nonostante c'è stato, come vedremo, un processo. E Zimmerman sparò un colpo di pistola, colpendo al cuore Martin e ferendolo a morte. Zimmerman ha ammesso l'omicidio nel suo primo interrogatorio e nonostante questo però il tribunale decise di non incarcerarlo immediatamente. Il suo arresto venne deciso 6 settimane dopo l'omicidio e tale decisione era stata posticipata basandosi su una particolare legge sulla legittima difesa approvata in diversi stati americani, ovvero quella basata sul principio del cosiddetto stand your ground. Fa veramente schifo anche solo leggerlo, che permette di sparare anche se ci si sente soltanto minacciati. È una delle leggi più, diciamo, controverse degli Stati Uniti, che garantisce l'immunità a chi spara anche solo con il ragionevole timore di essere in pericolo di vita o di essere ferito. Sabato 13 luglio del 2013, un anno dopo, un tribunale di contea della Florida ha dichiarato George Zimmerman non colpevole, ovviamente, direi io. Tra l'altro, cosa che non vi ho detto, ma che penso avrete intuito, è che Zimmerman ovviamente era bianco e peraltro nel processo mai è stato fatto cenno a una leggera problematica razzista. Ma vabbè, è andata così. Strano, vero? Everybody's got their badges, but they got no one to apprehend. Getting angry. So the bosses came up with a hell of a plan. Security job for each and every man. More alligators for their boots. Keep them hungry. What if every single person was a deputy? What if every single person was a deputy? What if every single person was a deputy? Riding down the wall. Mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare. Con Criminal Damage, l'album Voice of a Generation del 1982. Questi sì che erano indietro nel tempo. E prima ancora ovviamente la minuscola clip di Mastroianni nel audace colpo dei soliti ignoti, come vi dicevo. E beh, ora arriviamo agli astuti criminali. Smooth Criminal, pezzone di Michael Jackson, in questa versione che vi faccio ascoltare io, dei To Sell Us, l'album da cui è tratta la versione che ci andiamo ad ascoltare è appunto To Sell Us del 2011. Sapete chi sono i To Sell Us? Non lo so se ve li ho mai fatti sentire. Comunque sono un duo, come si intuisce dal nome, che suonano il violoncello. Semplice, no? Così, esattamente così. E rifanno brani improbabili che uno non direbbe mai potessero venire rifatti col violoncello, ma perché siete degli ingenuotti. Poi ve lo andate a sentire e scoprite che sono più belli degli originali. In questo caso sicuramente, perché beh, si tratta di Michael Jackson. Smooth Criminal, dicevamo, criminale astuto. Due prime versioni della canzone sono state scritte tra il 1985 e il 1986. La prima canzone si chiamava Chicago 1945 e poi trasformata in Al Capone. Ma tutti all'inizio chiamavano Al Capone un pezzo e poi lo decidevano di chiamare in un'altra maniera. Si vede che andava così. E questa versione è stata poi rielaborata e riscritta come Smooth Criminal. Ma veniamo alle cose importanti, ovvero il video, il videoclip di questa canzone, perché quando si parla di Michael Jackson la cosa veramente importante è il video. Il videoclip della canzone occupa la parte centrale del film Moonwalker, creato apposta per dare uno sfondo al brano, dove le cose importanti vengono fatte venire a galla. Nel film Michael Jackson sta giocando con i suoi amici all'aperto quando scoprono una caverna che conduce a una specie di mondo incantato, nel quale Mr. Big, interpretato da Joe Pesci, ovviamente, vende droga ai giovani per rendere tutti dipendenti. Jackson deve salvare una ragazzina di nome Annie dagli scagnozzi di Mr. Big grazie ai suoi poteri derivanti dalla luce delle comete. Vabbè, forse in realtà anche Michael Jackson, insomma, si serviva di Joe Pesci, anzi di Mr. Big e della sua merce. Ma vabbè, si trasforma in una super auto, un robot e un'astronave prima di salvare la vita alla bambina. Vabbè, era così, un po' psichedelico questo video. Ma non è questo ancora l'importante. Nel videoclip di Smooth Criminal, qui siamo sul pezzo, Michael Jackson esegue una mossa che appare violare le leggi di gravità, il cosiddetto 45 degree lean, inclinazione antigravitazionale. Nel video vengono utilizzate delle funi, in quanto Michael si inclinava in avanti di 60 gradi, il suo baricentro si ritrovava quindi essere al di fuori dei suoi piedi e se non fosse stato trattenuto avrebbe perso l'equilibrio battendo una facciata. Tuttavia, la stessa mossa viene riproposta anche in concerti ed esibizioni dal vivo, o com'è, dove finzioni cinematografiche non sono possibili. Beh, insomma, anche questo, cioè, ci sarebbe un po' da ridire, ma diciamo che al tempo magari era più difficile, ecco. Nei concerti questo passo era invece realmente eseguito sia da Michael Jackson sia dai suoi ballerini, senza illusioni ottiche o cavi di sorta. Ma, attenzione, le suole delle scarpe di Michael Jackson erano a forma di V e dei chiodini opportunamente posizionati nel terreno permettevano al cantante di agganciarsi e spostare il suo corpo oltre il baricentro, usando quindi muscoli di caviglie, gambe, glutei e schiena. La vera difficoltà stava nel riportare il corpo in posizione eretta dopo aver effettuato questa complicata mossa, in quanto lo sforzo richiesto alle gambe è veramente notevole, ma il nostro Michael Jackson poteva questo e altro. Il passo funzionò in tutte le occasioni, tranne, attenzione, che nel live di Tokyo nel 1996, in cui una scarpa non si agganciò correttamente nell'eseguire la mossa, Michael Jackson cadde e batte una boccata un po' clamorosa. Le scarpe usate sono state brevettate dallo stesso Michael Jackson, non avevamo dubbi che non avesse trovato il modo di farci i soldi. Il titolo del brevetto recita: metodo e strumenti per creare l'illusione dell'antigravità. Thank you. E ora torniamo ai criminali, quelli veri, e in particolare ci facciamo aiutare dal cinema un'altra volta, da Elio Petri, con il suo Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, film del 1970, interpretato da Gianmaria Volonté e Florinda Bolcan. Beh, non potete non averlo visto. Colonna musica originale di Ennio Morricone, ovviamente ancora lui. E, Roma, il giorno stesso della sua promozione al comando dell'ufficio politico della questura, il capo della sezione omicidi assassina la propria bellissima amante nel suo appartamento in via del Tempio numero 1. E poi vabbè, e poi si dipana tutto il film in un meraviglioso intrigo di potere, direi che tutto il film è incentrato sul potere e tutte le sue varie forme, i suoi vari tentacoli. C'è una citazione di Franz Kafka che chiude il film: qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. La versione che ci andiamo a ascoltare è quella dei Fantomas, Investigation of a Citizen Above Suspicion. L'album è The Director's Cut, ovviamente, del 2001. Ma non ce l'andiamo ad ascoltare perché, ahimè, la traccia non esiste ed è un bruttissimo scherzo che mi ha fatto il file sharing. Vedete, a fare i criminali e scaricare le cose illegalmente da internet, cosa succede? Che si hanno delle tracce finte. Vabbè, era bella, cioè ve la racconto, era tutta un po', cioè all'inizio c'era tutta una cosa, un po' un casino di voci, poi c'era Patton che entrava e faceva, era molto bella, era molto bella. Vabbè, niente, tristezza, vi metterò il link di YouTube per farmi perdonare sul podcast, è andata così, che tristezza. Va bene, e quindi ci tocca non ascoltarci questo, ma ascoltarci invece, beh, direi che ci consoliamo in maniera abbastanza degna con Gabriella Ferri. Gabriella Ferri, beh, c'era 2000 anche qui canzoni da scegliere, quella che sono andata a prendere è Canto di Malavita. La versione di Gabriella Ferri di un popolare stornello romano, pubblicato nel 1974 nell'album Remedios. Allora, la Ferri, nata e cresciuta nel rione romano di Testaccio, poi trasferitasi in Viale Etruria a San Giovanni, è figlia di Vittorio, un commerciante ambulante di dolci. La sua vita è abbastanza lineare, non così tormentata come la sua voce vorrebbe. Ha l'ambizione di diventare una modella e per realizzare questo mestiere, che poi peraltro non gli riesce, cioè non riesce a svolgere assolutamente, e invece svolge tantissimi altri lavori, tra operaia, commessa e quant'altro. A un certo punto conosce Luisa De Santis, figlia del regista Giuseppe, celebre per Riso Amaro, insomma, e tanti altri film del neorealismo italiano, e ne diviene molto amica. Insieme danno vita a un duo con il nome di Luisa e Gabriella, che cerca di riscoprire il repertorio folk romano. E iniziano i primi spettacoli, essenzialmente basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca e su canti da osteria. Il duo però in realtà ha una vita piuttosto breve, nonostante i successi, a causa sostanzialmente della timidezza di Luisa, che non ama cantare in pubblico. Gabriella continua quindi da sola, incidendo anche un album nel 66, in realtà nello stesso anno va in Canada per una tournée di uno spettacolo teatrale di musica popolare con la regia di Aldo Trionfo, insieme ad altri esponenti del folk italiano come Caterina Bueno, che mi sembra ovvio dover citare, Otello Profazio e l'attore Nino Toffolo. Inizia così la sua fortuna in Italia e in Sud America, dove è molto amata, e fra l'altro fu una delle prime donne in Italia a firmare i propri brani, che affiancava poi ai grandi classici della tradizione. Il 13 aprile del 2004 Gabriella Ferri morì in seguito alla caduta da una finestra della sua casa di Corchiano nel Viterbese. La cantante aveva tentato di togliersi la vita nel 75, peraltro, dopo la morte del padre Vittorio, ma in realtà la famiglia ha sempre smentito ogni ipotesi di suicidio, dicendo che in realtà potesse essere causato da un malore, probabilmente per colpa dei medicinali antidepressivi. In ogni caso, era un fatto abbastanza noto che Gabriella Ferri fosse abbastanza triste, come dire, soprattutto nella fase finale della sua vita, quindi chissà. Ma a parte le note biografiche, tornando al pezzo che vi faccio ascoltare, Gabriella Ferri ha cantato spesso del carcere e ne racconta in un modo, secondo me, universalmente immediatamente comprensibile. Le Mantellate, ad esempio, un altro brano che parla del carcere femminile, anzi parla dal carcere femminile, perché a parlare è proprio una protagonista incarcerata, e non lascia nessuna ipocrita salvezza a questa tortura chiamata istituzione. Ma Cristo non c'è sta dentro a ste mura, mo che parlata fa, qua dentro c'è sta solo infamità. E mi sento di dedicare questo bellissimo brano a tutti quelli che erano sotto il carcere di Rebibbia a Capodanno di quest'anno, e a quelli che erano sotto le vallette a Torino, e un po' a tutti quelli che vanno a dare un saluto a Capodanno a chi purtroppo si ritrova costretto dentro quelle terribili mura. Sono stato carcerato e ben capriccio, perché portavo in berta e in cortellaccio. Scontrai la porta e me vio de piccio. Sta fermo e fermo là, fermo gravaccio. E mo sto dentro come de vosso amar. E mo sto dentro come de vosso amar. E mo sto dentro come de vosso amar. Dentro come le vostre mani. E mo sto dentro come le vostre mani. E mo sto dentro come le vostre mani. E mo sto dentro come le vostre mani. E mo sto dentro come le vostre mani. E mo sto dentro come le vostre mani. E mo sto dentro come le vostre mani. Questa era Gabriella Ferri, Canto di Malavita. E ci salutiamo adesso con un ultimo brano, visto che, ahimè, ne abbiamo dovuto saltare uno. Abbiamo fatto prestissimo, meglio, perché la mia voce tra poco andrà ad esaurirsi definitivamente. No, spero definitivamente no, sennò è una catastrofe. Ma ecco, almeno per stasera eviterò di parlare ulteriormente, ecco. Quindi l'ultimo brano che vi faccio ascoltare è bello lunghetto e vi accompagnerà in questa notte, spero, ancora in compagnia di Radio Wombat, ed è Velvet Underground, The Murder Mystery. L'album è The Velvet Underground, il terzo album loro del 1969. È un, diciamo, avanguardistico esperimento sonoro, è stato definito così, comunque sì, effettivamente una sperimentazione, potremmo chiamarla così, in cui due testi diversi vengono recitati, cantati e recitati contemporaneamente nei due canali stereo, su un tappeto sonoro fatto di musica dissonante. Uno degli esperimenti più curiosi di questo gruppo, effettuato nonostante in realtà il grande sperimentatore della band, John Cale, avesse già lasciato i Velvet Underground da diverso tempo. Questa quindi è The Murder Mystery, e con questo ci salutiamo, vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Vi ricordo, prima di andarmene, anche perché me l'ero completamente dimenticato di ricordarvi a vostra volta, i social Wombat, ovvero il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta wombat@insiberia.net. mi raccomando, perché ci sono un bel po' di novità ultimamente, ci sono trasmissioni nuove che sono partite, in particolare spazi informativi finalmente, che affiancheranno le trasmissioni un po' più di tipo musicale come questa, spazi informativi di rassegne stampe, rassegne eventi, insomma potrete sapere un po' tutto quello che succede in giro, e grazie al nostro premuroso Wombat. Quindi mi raccomando, tenetevi aggiornati sul sito wombat.noblogs.org e sul palinsesto date un'occhiata ai vari cambiamenti che ci sono stati, per non farvi cogliere impreparati. Quindi a presto, intanto buonanotte e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Wombat. Ciao ciao! Simple, come on. Sailing.